Letture di Radio 24. Il 14 febbraio 1989, pochi mesi dopo la pubblicazione dei suoi versetti satanici, Salman Rushdie apprende di essere stato condannato a morte dall'Ayatollah Khomeini. Quando la polizia inglese gli chiese di scegliere uno pseudonimo, Rushdie optò per Joseph Fenton, unendo i nomi dei suoi due scrittori preferiti, Conrad e Chekhov. Ed è con questo nome che più di 20 anni dopo ha intitolato la sua autobiografia, nella quale racconta in terza persona la sua esperienza di vita da recluso. L'attacco ai versi satanici, benché molto presente nei media, era di per sé una cosa di poco conto, così che fu difficile convincere le persone che in verità si trattava di un evento abbastanza straordinario da giustificare una risposta fuori dalla norma. Durante la sua lunga trafila nei palazzi del potere di tutto il mondo, fu costretto più di una volta a ribadire la semplice realtà dei fatti. Uno scrittore serio ha scritto un libro serio. La reazione violenta e pericolosa che ha scatenato è un atto terroristico e va affrontato in quanto tale. Però il suo libro ha offeso molte persone, vero o no? Forse sì, ma l'attacco contro il romanzo, l'autore, gli editori, i traduttori e i librai è un'offesa ben più grave. Ah, quindi dopo aver creato un sacco di problemi a tutti trova pure il coraggio di lamentarsi e pretende che i leader mondiali difendano il suo diritto di piantare grane. Nel 600 l'inglese Matthew Hopkins, il grande inquisitore, mise a punto un metodo per smascherare le streghe. Bastava che la donna accusata fosse gettata in un lago con una zavorra di pietre o legata a una sedia. Se galleggiava, era una strega e finiva sul rogo. Se affondava e annegava, allora era innocente. La semplice accusa di stregoneria equivaleva spesso a un verdetto di conclamata colpevolezza. In quel momento era lui a trovarsi sotto processo, a cercare di persuadere il mondo che i veri criminali erano gli inquisitori e non lui. Ecco perché ciò che stava accadendo era qualcosa di nuovo. Si era sviluppata un'inedita forma di intolleranza che si stava diffondendo sulla superficie del globo, ma tutti preferivano non curarsene. Era stato addirittura creato un neologismo per far sì che i ciechi restassero ciechi, islamofobia. Criticare la piega aggressiva che aveva preso a quel tempo l'Islam equivaleva a essere bollati per intolleranti, per fobici. E siccome un fobico è una persona estrema e irrazionale, la colpa non poteva che ricadere su costui, deresponsabilizzando così una religione che vantava oltre 1 miliardo di seguaci in tutto il mondo. Tutta quella gente non poteva sbagliarsi. Dunque chi avanzava delle critiche doveva per forza essere fuori controllo, un pazzo con la bava alla bocca. Ma a partire da che momento, si chiedeva lui, avere in uggia o anche contestare con veemenza una religione, qualunque religione, era diventato un comportamento irrazionale? Da quando la religione era stata ribattezzata irragionevole? Quando era successo che le fiabe dei superstiziosi avevano scalzato lo spirito critico e la satira? Una religione non è una razza, pensava, è un'idea. E le idee reggono o crollano perché sono o non sono abbastanza forti da resistere ai loro detrattori, non perché si mettono al riparo dalle critiche. Le idee forti ammettono il dissenso. Solo chi è debole e autoritario si sottrae agli avversari, li ricopre di insulti e a volte desidera far loro del male. Era l'Islam a essere cambiato, non la gente come lui. Era l'Islam ad aver sviluppato una vera e propria fobia verso una vasta gamma di idee, comportamenti e realtà. In quegli anni, e in quelli che seguirono, i portavoce islamici di qualunque parte del mondo, Algeria, Pakistan, Afghanistan, scagliarono anatemi contro il teatro, il cinema, la musica, ferirono o uccisero musicisti e artisti. L'arte figurativa era considerata il male assoluto. Così i talebani pensarono bene di distruggere le antiche statue buddiste nella valle di Bamiyan. La violenza islamista si abbatté su socialisti e sindacalisti, disegnatori e giornalisti, prostitute e omosessuali, donne che portavano la gonna e uomini senza barba, o anche, raggiungendo vette surreali, persino su certe diavolerie come il pollo surgelato o le samosa. L'Islam si allontanava sempre di più dalle sue origini, e questo proprio mentre pretendeva di rivendicare un ritorno alle radici. Avete ascoltato la lettura di alcune pagine dal libro di Salman Rushdie, Joseph Anton, Mondadori, 660 pagine, 25 euro.